Civiltà. Gli italiani e lo sport. Ciclismo. A. Ascolta il testo. Il ciclismo è uno sport che gode di molta popolarità in Italia. Il Giro d'Italia nasce nel 1908 attraverso un telegramma mandato al direttore della Gazzetta dello Sport da un suo giornalista, con la proposta di creare una gara a tappe in bicicletta tra i migliori ciclisti. La prima gara risale al 1909 e Luigi Gamma si afferma come primo vincitore del Giro d'Italia. I ciclisti più famosi sono Alfredo Binda, che vince 5 edizioni del Giro tra il 1925 e il 1933, e Fausto Coppi, con altrettante vittorie del Giro tra il 40 e il 53, oltre a 2 vittorie del Tour de France. Nel 1953 diventa campione del mondo. Un rivale di Coppi, ma anche lui un ciclista straordinario, è Gino Bartali, con 3 vittorie del Giro e 2 vittorie del Tour tra gli anni 30 e 50. Altri 2 campioni del Giro d'Italia sono Felice Gimondi, con 3 vittorie, e Francesco Moser, che oltre ad avere successo nel Giro, conquista il titolo di campione del mondo nel 1977.